24, i gialli della storia. 27 giugno 1980. È quasi sera. L'aereo parte da Bologna diretto in Sicilia. Il volo è tranquillo. Il sole è ormai al tramonto. All'improvviso una violenta esplosione. Nessuno ha il tempo di accorgersi di nulla. Tutto e tutti precipitano in mare. Ora fuori sta calando la notte e dentro l'acqua i resti dell'aereo affondano inesorabilmente verso il buio ed il silenzio, a 3.500 metri di profondità. All'alba del giorno dopo il mare restituisce pezzi di lamiera e i corpi di una parte dei passeggeri. È un segnale. Che cosa è successo? Solo i resti dell'aereo potrebbero parlare, ma ripescarlo sembra un'impresa impossibile. Invece, dopo 10 lunghi anni, succede. Finalmente tutto quello che resta dell'aereo viene riportato a galla, all'aria e alla luce. 27 giugno 2006. È di nuovo notte, una tiepida notte d'estate. All'improvviso si accendono le luci, vengono spalancati i portoni, ritornano i rumori di voci e di motori. Esce un primo camion rosso, poi un altro e un altro ancora, perché sono i pompieri ad accompagnare i resti dell'aereo nel viaggio di ritorno al luogo da dove era partito. A Bologna l'aspetta una nuova casa, un luogo appositamente predisposto dove tutti i pezzi vengono accuratamente lavati e pazientemente rimontati nella loro posizione originaria. Il 27 giugno del 2007, quasi 30 anni dopo la tragedia, a Bologna si inaugura il Museo della Memoria della strage di Ustica. Un museo fortemente voluto dai familiari delle 81 vittime che la sera del 27 giugno dell'80 hanno trovato la morte nel cielo di Ustica a bordo del DC-9 di Itavia. Un museo che vuole essere anche un monito, un invito a non smettere mai di cercare la verità. Ancora oggi, infatti, nessuno sa come e perché quell'aereo è esploso in volo. A Roma, il giudice priore, al termine della sua istruttoria, ha scritto testualmente: si è trattato di un caso di guerra in tempo di pace. Quella sera del giugno 1980, da terra, molti radar vedono il percorso del DC-9. Adesso vedo che sta rientrando, quindi praticamente diciamo che è allineato. Mantenga questa prua. Noi non ci siamo mossi, eh? Benché il centro di controllo radar di Ciampino abbia visto uno spostamento e un successivo allineamento dell'aereo, l'equipaggio smentisce di aver effettuato qualsiasi manovra. Contemporaneamente, due piloti militari, Ivo Nutarelli e Mario Naldini, in volo con un F-104 sulla Toscana, lanciano per due volte un segnale di allarme generale. Al DC-9 Itavia, però, non arriva nessuna comunicazione. Il DC-9 Itavia passa poi all'area coordinata dalla Terza Regione Aerea, il cui comando è a Martina Franca, che supervisiona tutte le operazioni dei radar di Licola, Marsala e Siracusa. Tramite smorso da Martina Soccorso, con chi parlo? Sì. Sono all'estallo, c'è stato ufficiale? Guardi, dica a me per cortesia, non cerchiamo sempre l'ufficiale. No, no, perché è una cosa abbastanza seria. Dicemi che mi metto a ridere quando mi dico. Benissimo, è caduto il DC-9, Pronto? Dica, dica. È caduto il DC-9 lungo la rotta che porta da Bologna a Palermo. E a lei chi le ha detto che è caduto? Guarda, questo qui deve atterrare, già alle 9.13 su Palermo. Sì, queste notizie io sono tutte quante. Lei mi ha detto che è caduto, chi gliel'ha detto? E io penso che sia caduto. Ecco, pensa. E dopo l'ultima comunicazione delle 20:56 e 54 secondi, da bordo dell'aereo Itavia c'è solo silenzio. Tutti i siti radar che controllano il traffico aereo sul Tirreno iniziano una ricerca frenetica del DC-9, ma il cielo è vuoto. Intanto all'aeroporto di Palermo inizia l'attesa dei familiari dei passeggeri. L'aereo è dato per disperso alle 5 della mattina. Per 5 giorni i mezzi di soccorso recuperano i pezzi dell'aereo rimasti a galla e quelle poche salme che il mare restituisce, 39 su 81 passeggeri. Tra queste cose recuperano dei salvagenti che apparentemente sembrano appartenere agli uomini di una portaerei o addirittura a due piloti di un caccia imbarcato su una portaerei. Il 28 giugno al centralino del Corriere della Sera arriva una telefonata anonima. Scriva, qui Inar, in informiamo che nell'aereo caduto sulla rotta Bologna-Palermo si trovava un nostro camerata, Marco Affaticato. Ma la notizia è falsa e il 29 giugno arriva la smentita. Affaticato è vivo, latitante in Francia. La telefonata, probabilmente, viene dal centro sismi di Firenze. In quegli stessi giorni, intanto, la stampa inizia ad ipotizzare il coinvolgimento di altri aerei nel disastro del 19. Il 18 luglio 1980, sulla Sila, in Calabria, vengono ritrovati i resti di un MiG-23 di fabbricazione sovietica. È un caccia a monoposto, matricola 6950, sotto un rettangolo verde, la bandiera dell'aeronautica militare libica. Nel frattempo l'inchiesta passa a Roma. Il pubblico ministero Giorgio Santacroce ordina una perizia a John Machidul, esperto del National Transportation Safety Board, ente americano specializzato nelle indagini sui disastri aerei. Si attiva anche il ministro dei trasporti Rino Formica, che nomina una commissione guidata da Carlo Luzzatti con il compito di indagare sulle cause della caduta del 19. Nel dicembre 1980 la commissione del ministro esclude l'ipotesi del cedimento strutturale. Il 17 dicembre 1980 Aldo Davanzali, presidente della compagnia Itavia, scrive al ministro dei trasporti Formica. Secondo i suoi esperti, ad abbattere il 19 è stato un missile. E abbiamo visto che l'unica spiegazione possibile poteva essere quella di un'esplosione che aveva abbattuto l'aereo. Il ministro dei trasporti Formica cita in giudizio Davanzali per aver diffuso notizie false e tendenziose. Secondo Formica, per il momento, si può parlare solo di esplosione, ma non è certo se sia avvenuta all'interno o all'esterno dell'aereo. Il 28 gennaio 1981, il ministero dei trasporti revoca la concessione dei servizi aerei di linea alla compagnia Itavia. A questo punto, l'unico dato certo su cosa sia successo al 19 è il tracciato radar di Ciampino, che evidenzia due punti, notati anche dagli esperti americani, che forse corrispondono a qualcosa che volava vicino all'aereo dell'Italia. Mentre la versione dell'aeronautica rimarrà sempre la stessa, non c'erano aerei italiani o NATO, militari o civili in volo. E allora, perché è caduto il 19 dell'Italia? A questo punto le ipotesi sono quattro. La prima, il cedimento strutturale. La seconda, la collisione con un altro aereo in volo. La terza, una bomba a bordo. La quarta, un missile sparato da un altro aereo. Da subito le prime perizie escludono categoricamente l'ipotesi di un cedimento strutturale. Quel 19 non aveva nessun problema tecnico, ma per 7 anni le indagini restano praticamente bloccate. Il relitto, infatti, giace in fondo al mare a 3.500 metri di profondità. Giugno 1987, la ditta francese Ifremer inizia le operazioni di ripescaggio del relitto del 19. Ma il recupero è solo parziale, manca ancora la maggior parte dell'aereo e una delle due scatole nere. Qualcuno poi avanza anche dubbi su questa società, che si dice sia legata ai servizi segreti francesi, da sempre sospettati di sapere qualcosa di più sul disastro del 19. Oltre che a portare a pochi risultati, il recupero finisce così anche al centro di polemiche e speculazioni. Passa un anno e il 6 maggio 1988, durante la trasmissione televisiva Telefono Giallo di Corrado Augias, una voce anonima che dice di essere un ex aviere in servizio a Marsala la notte del disastro rompe un silenzio che dura da 8 anni. La verità è questa: ci fu ordinato di starci zitti, e la saluto e saluto anche l'onorevole Rodotà e tutti quelli che hanno cercato di dire la verità, perché non voglio rogne e non voglio far gentile tutti. Gentile notte. Gentile amico, non attacchi, attaccate il telefono. 16 marzo 1989. La commissione peritale voluta dal giudice istruttore Vittorio Bucarelli consegna la sua relazione. È missile. Ma anche le certezze della commissione durano poco. A un solo anno di distanza, 2 dei 5 periti si dissociano dal rapporto finale e sostengono la tesi della bomba a bordo. Le indagini sulle cause dell'incidente sembrano tornare al punto di partenza, cioè a zero. Intanto l'inchiesta passa a Roma al giudice istruttore Rosario Priore. Priore impegna 9 anni per giungere a una conclusione clamorosa. Quella sera il 19 dell'Itavia non era solo. Nel cielo di Ustica c'era almeno un altro aereo. La nuova commissione di periti, istituita appunto da Priore, la commissione Misiti, si spacca in due. La maggioranza dei periti, infatti, sostiene l'ipotesi di una bomba a bordo del 19. La minoranza invece propende per la tesi del missile. Come se non bastasse, tutti coloro che potrebbero fornire elementi utili per chiarire cosa è successo sembrano colpiti da un'improvvisa amnesia. Mix 24, i gialli della storia. Bentornati all'ascolto di Mix 24, stiamo raccontando i misteri legati al disastro dell'esplosione del D-19 dell'Italia, che volava da Bologna a Palermo la notte del 27 giugno dell'80, che ha causato la morte di 81 persone, 77 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. La commissione d'inchiesta nominata dal ministro dei trasporti Rino Formica arriva alla determinazione che la distruzione dell'aereo è stata determinata da un'esplosione, ma non è ancora certo se l'esplosione è avvenuta all'interno o all'esterno dell'aeromobile. E anche una nuova commissione si spacca sulle due ipotesi, ma la storia di Ustica si arricchisce di nuovi misteri, come racconta il giornalista Andrea Purgatori e poi il giudice Rosario Priore. La storia di Ustica è una storia fatta di non ricordo. Uno dei casi più clamorosi è che quella stessa notte nella base militare di Grosseto ci sono tre ufficiali in torre di controllo che a un certo punto cominciano a parlare di phantom, di portaerei, di aerei precipitati, cioè fanno tutto un discorso che insomma è assolutamente compatibile con lo scenario di quello che è appena accaduto nel cielo di Ustica. Tutto questo viene registrato da un telefono messo fuori posto che funziona in automatico e questa registrazione finisce poi successivamente nelle mani del giudice istruttore, il quale ci mette qualcosa come 11 anni prima di riuscire a identificare questi tre ufficiali dell'aeronautica. Ci vogliono ben 3 interrogatori prima che loro ammettano che sono loro che stavano parlando e però contemporaneamente dicono: io non mi ricordo affatto quello che stavo dicendo. Un'altra certezza documentata dalle carte, in particolare dalla NATO, è che 20 minuti prima che l'aereo esplodesse un caccia italiano ha visto qualcosa di strano al punto da lanciare un segnale di emergenza prima di rientrare alla base di Grosseto. È l'F-104 di Mario Naldini e Ivo Mutarelli. Ma i due piloti non hanno mai spiegato il perché di quell'allarme e non avranno più occasione di farlo. Nel 1988 moriranno a Ramstein, in Germania, nell'incidente delle frecce tricolori che ha provocato la morte di 67 persone. È un altro mistero che si aggiunge al mistero, le morti sospette legate alla strage di Ustica. Ci sono, mi pare, all'incirca una quindicina di morti sospette che hanno a che fare con la strage di Ustica. Però effettivamente ci sono parecchi suicidi. Ce ne sono un paio, se non tre, abbastanza singolari. Mario Alberto Dettori viene trovato impiccato ad un albero il 31 marzo 1987 sul greto del fiume Ombrone, vicino Grosseto. Nel 1980 era controllore di difesa aerea presso il radar di Poggio Ballone. Alle persone che gli erano più vicine aveva raccontato di aver visto qualcosa sui radar. Ho detto: vabbè, ma che hai fatto? Ho detto: così strano. Dico: ma che è successo qualcosa a te? Che è? Ci è mancato poco che scoppiava la guerra, è successo un casino, proprio. Dico: ma perché? Dice: niente, niente. Dice: meno si parla, meglio. Nel 1986 Dettori è in missione in Francia. In una telefonata alla moglie dice di aver visto sui muri per strada la scritta: il silenzio è oro e uccide. Il giorno dopo Dettori rientra a casa senza terminare la sua missione. E ci sono, come dice il giudice istruttore, parecchi suicidi in ginocchio. Per dire che, insomma, se qualcuno si vuole impiccare, generalmente non lo fa toccando con i piedi per terra. Il maresciallo Franco Parisi viene ritrovato il 21 dicembre 1995 impiccato ad un albero di un suo piccolo fondo nella periferia di Lecce. Nel 1980 Parisi era controllore di difesa aerea presso il radar di Otranto. Parisi è di turno la mattina del 18 luglio, quando viene ritrovato il MiG-23 libico. Nel settembre 1995 viene sentito a questo proposito dal giudice Priore. Parisi era già stato sentito, come tutti i suoi colleghi che prestavano servizio in quella sera, quel giorno, ad Otranto, alla base radar di Otranto. Però poi si erano verificate delle necessità di risentirli e di rimetterli a confronto. Anche in questo caso si è sostenuto che potesse essere qualcosa invece di compiuto da altri, perché l'altezza del ramo era piuttosto bassa, lo sgabello non si è capito come se fosse stato calciato da lui o meno. Vennero fuori storie strane, che sarebbe stato anche minacciato, sarebbe stato ripreso quando accennava a voler dire qualche cosa, però sono tutte circostanze, sono tutti fatti di cui noi non abbiamo una prova certa. Anche se è impossibile provare che si tratti di omicidi, anche su quelle morti il mistero continua. Ma il mistero più grande naturalmente rimane sempre lo stesso. Che cosa è successo al 19? Non ho mai pensato che fosse un incidente, capivo, sentivo che questa mancanza di notizie, questa mancanza di informazioni, questa mancanza di verità non poteva che essere sintomo di una verità indicibile. Quello che dicono i giornali noi sapevamo, davvero io ricordo ragazzino di 14 anni, credetti al cedimento strutturale. È importante sapere cosa è successo, perché è brutto andare a letto tante volte, ancora oggi dopo tanti anni, e non sapere come e perché è morta tua figlia. Se per me rimane il dolore di avere perso mio marito, è ancor più il dolore di avere perso il padre dei miei figli, perché crescere tre figli senza un padre è drammatico. Se a me rimane questo dolore, rimane tra le mie quattro mura e nel mio cuore, non interessa a nessuno. Sono tanti i morti per tragedie e io mi porto la mia croce come me la sono portata a 25 anni. Ma io ai miei figli, ai miei nipoti, devo dire, siete cittadini italiani e come cittadini italiani avete dei doveri che io vi ho insegnato a rispettare, ma avete dei diritti che dovete reclamare. E tra questi diritti da reclamare c'è anche il diritto alla verità. Qualcuno ha visto, qualcuno sa, qualcuno deve parlare. Ma chi potrebbe avere degli elementi davvero fondamentali per risolvere questo mistero? Chi c'era quella sera che avrebbe potuto vedere qualcosa? E cosa c'entra quella portaerea americana ormeggiata a Napoli? Ammiraglio Flatley, lei era al comando della Saratoga quel giorno e la Saratoga si trovava nel Golfo di Napoli, esatto? La nave era attraccata nel Golfo di Napoli. Naturalmente i vostri radar erano in funzione. Stavamo effettuando dei lavori di manutenzione sui radar. Ma sicuramente uno dei radar era in funzione. Esatto, effettuavamo la manutenzione, ma il radar era in funzione, anche se era tenuto molto basso. Che cosa ha registrato il radar della Saratoga quella notte, al momento dell'incidente? Di che cosa si trattava? Ad essere del tutto onesto non potrei dire che cosa esattamente comparve sul radar. Gli addetti alla manutenzione notarono qualcosa sul radar. Cosa? Il traffico aereo era molto sostenuto nell'area di Napoli, soprattutto in quella meridionale. Sul radar abbiamo visto passare moltissimi aerei. Ma i registri del radar della Saratoga non sono mai arrivati nelle mani degli inquirenti italiani. Consegnati al comando statunitense di terra, se ne è persa ogni traccia. Stessa sorte è toccata anche ad alcuni dei più importanti registri di sala del sito di Marsala, che sono risultati distrutti o riscritti in bella copia nella parte riguardante la giornata del 27 giugno. All'appello mancano anche il registro radar del sito militare di Poggio Renatico, vicino Ferrara, e alcuni dei nastri del sito di Poggio Ballone. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla Digital Radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... Assicom. Vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Mix 24, i gialli della storia. Siete ancora all'ascolto di Mix 24 che oggi vi sta proponendo la storia del disastro del 19 dell'Itavia nella notte del 27 giugno dell'80. Su questa storia molti dubbi, molti sospetti, molte omissioni e poi testimoni che si sono suicidati misteriosamente, documenti di cui si sono perse le tracce. Su questo una sola certezza, 81 vittime innocenti che aspettano la verità, ancora il giornalista Andrea Purgatori e il giudice Rosario Priore e poi Giulio Andreotti. I francesi per tutti questi anni hanno sempre sostenuto che la loro base di Solenzara in Corsica alle 5 del pomeriggio del 27 giugno 1980 terminò l'attività di volo. Questo è ampiamente smentito da una serie di testimonianze dirette. alcune di queste testimonianze che sono state rese autonomamente al giudice istruttore sono quelle dell'allora colonnello Bozzo, che era il braccio destro di Dalla Chiesa, e di suo fratello, che proprio a Solenzara andarono in vacanza quel giorno. Ero lì con la mia famiglia. Mio fratello dice: ti devo portare a Solenzara perché c'è un aeroporto militare dove volano degli aerei che noi non vediamo qua di solito in Italia. Poi verso le 7 così ti porta a mangiare una pizza che in Italia manco te la sogni. Siamo arrivati a questa pizzeria e la prima sorpresa è che c'era nessuno, era vuota. Siamo entrati dentro e hanno detto: ma è aperta? Sì, è aperta. Però è tutto prenotato, tutti i posti sono prenotati perché verso le 8 così verranno i piloti della base. E difatti, mentre noi andavamo via, arrivavano i piloti in tuta da volo, eccetera, perché l'aeroporto era attaccato alla pizzeria. Torniamo in albergo, andiamo a dormire verso le 11, che era un traffico che non... Ho detto qua, che è andato avanti fino alle 2:30, alle 3 di notte. I fratelli Bozzo, in vacanza a Solenzara, in Corsica, la sera del 27 giugno 1980 sentono un intenso traffico aereo proveniente dalla base francese. Ma nonostante i ricordi così precisi del generale dei carabinieri Niccolò Bozzo, il governo francese ha risposto alle rogatorie dei nostri magistrati, affermando che la base aerea di Solenzara, in Corsica, ha cessato ogni attività di volo alle 5 del pomeriggio di quel 27 giugno. Gli americani poi, da parte loro, continuano a sostenere che il radar della portaerei Saratoga non ha visto nulla, che anzi i radar di bordo erano in manutenzione. Un racconto molto difficile da credere, soprattutto se si considera lo scenario internazionale di quell'estate del 1980. 1980, un anno di tensione, di allarme internazionale, di blocchi dell'est e dell'ovest, sull'orlo di una vera e propria guerra di nervi. Nel dicembre 1979 l'Unione Sovietica ha invaso l'Afghanistan, minacciando una delle regioni più ricche di petrolio al mondo. Poche settimane prima, a Teheran, gli studenti iraniani hanno assaltato l'ambasciata americana, prendendo in ostaggio quasi 60 diplomatici statunitensi. Stati Uniti e Unione Sovietica utilizzano il Mediterraneo come terreno di scontro, è un braccio di ferro che si protrae in continuazione. Da una parte ci sono le forze americane, la Sesta Flotta, che si muove, diciamo, tra la base di Napoli e il resto del Mediterraneo, ci sono le basi, la base di Sigonella. Dall'altra c'è l'Unione Sovietica, che può contare su una parte d'appoggio in Libia e su tutti i mezzi navali, aeronavali, che riesce a mettere, diciamo, in campo nel Mediterraneo. Nel Mediterraneo, intanto, monta la tensione internazionale nei confronti della Libia. Gheddafi lavora per arrivare alla costituzione di una nazione che unisca i popoli arabi e adotta una politica estera decisamente anticolonialista e anti-israeliana. Il colonnello Gheddafi è, diciamo, in quel momento il nemico numero uno degli Stati Uniti. Il presidente degli Stati Uniti d'America ogni mattina si preoccupa di cosa farà Gheddafi. Anche la Francia di Giscard d'Estaing è in rotta con il regime di Tripoli, che minaccia il regime filo-francese del Chad. E da quando, con gli accordi di Camp David del 1979, il presidente egiziano Anwar al-Sadat ha siglato la pace con Israele, Gheddafi ha ingaggiato una guerra non dichiarata anche contro l'Egitto. Gheddafi minaccia di mettere in atto una vera e propria offensiva, addirittura si parla dell'accensione delle basi degli Scud, i missili che vengono puntati contro l'Egitto, dove si stanno trasferendo un paio di squadriglie di cacciabombardieri americani. È l'operazione Proud Phantom. Obiettivo ufficiale, una semplice esercitazione. In realtà sembra che gli americani vogliano addestrarsi insieme ai MiG-21 guidati dagli egiziani per preparare un attacco alla Libia e impadronirsi dei pozzi petroliferi. L'Italia ha una politica doppia. da una parte ufficialmente fa parte del blocco occidentale, fa parte della NATO, quindi è schierata e alleata degli Stati Uniti e della Francia nel caso specifico riferito al Mediterraneo, dall'altra ha un rapporto privilegiato con tutti quanti i paesi arabi e in primo luogo con la Libia. Non potevamo nemmeno fare a meno della Libia, che specialmente in quel periodo ci riforniva di una percentuale altissima dei nostri, del nostro fabbisogno petrolifero. Ricordo una battuta che era in voga qualche anno fa, e cioè che noi eravamo incerti tra la moglie americana e l'amante libica. Ci sono almeno 20-25 mila lavoratori italiani in Libia, la Libia è proprietaria del 13% di azioni della Fiat e in quel momento sta comprando terreni a man bassa nel nostro paese e contemporaneamente manda i suoi killer a uccidere gli oppositori del colonnello Gheddafi. Io ricordo quando la signora Thatcher, in una conferenza stampa, e mi dice: ma voi italiani c'è l'embargo verso la Libia, non lo rispettate. E dici: signore, io non so chi le racconta queste storie. Noi avevamo circa 12.000, forse più, lavoratori italiani, sono ridotti a 3.000. Voi che non avete più relazioni diplomatiche perché avevano ucciso una poliziotta inglese sotto l'ambasciata libica di Londra, e le cifre io le so perché vi rappresentiamo noi come interessi consolari, voi eravate 2.000, adesso siete 6.000 presenti. La versione da guerra del colonnello Gheddafi ha una serie di aerei sovietici, tra cui molti MiG, che vanno a fare la manutenzione a Banja Luka, nella ex Jugoslavia. Poi dovrebbero rientrare utilizzando il corridoio Adriatico. Invece l'Italia consente ai libici di attraversare il nostro spazio aereo più o meno in direzione dell'Appennino e di seguire per rientrare il corridoio tirrenico. In questo modo i MiG libici passano a poche centinaia di chilometri dalle basi francesi della Corsica, sulla verticale della Sesta Flotta a Napoli e sulla base americana di Sigonella. Nel viaggio dalla Jugoslavia a Tripoli, i MiG libici utilizzano l'aerovia Ambra 13, una specie di autostrada del cielo, la stessa usata dal 19 Italia in volo da Bologna a Palermo. Naturalmente francesi e americani questo non lo possono accettare. Nelle carte del SISMI, del centro SISMI di Verona, questo movimento e questi passaggi sono perfettamente documentati e vengono indicati come la causa principale di ciò che accadde quella notte a Ustica. Sappiamo, perché l'ha rivendicato più e più volte il presidente della Giamahiria Gheddafi, che quella notte la vittima designata era lui. Io non voglio dire che questa sia la verità. Un leader di un paese straniero lo dice, e quindi quantomeno che il mio governo, che è il governo del mio paese, glielo vada a chiedere. Quando lui ha sostenuto che la Libia aveva la responsabilità per la strage di Lockerbie e per la strage dell'aereo della UTA nel Chad, ha anche detto pubblicamente in televisione: noi invece sulla vicenda di Ustica siamo vittime tanto quanto gli italiani. Di certo c'è, e questo è stato confermato anche dalla sentenza della Corte d'Assise, c'è una situazione complessa, nel senso che in quel momento volavano più aerei. Quella notte il 19 volava in mezzo ad aerei non identificati militari, e quindi di conseguenza è verosimile immaginare che quello che è accaduto sia accaduto al centro di uno scenario di guerra aerea. Dunque, secondo Priore, allo Stato non c'è nessun elemento che dimostri un coinvolgimento della Libia nella tragedia di Ustica. Ma nella tragedia del 19 la Libia rimane, ciò nonostante, un elemento fondamentale. Il 18 luglio dell'80, a soli 21 giorni dalla caduta del 19, c'è infatti un nuovo colpo di scena. Sulle montagne della Sila, in Calabria, vengono trovati i resti di un MiG libico. Da subito molti sospettano che quell'aereo sia caduto la stessa sera del 19 e che dunque sia in qualche modo collegato alla strage di Ustica. L'aeronautica militare italiana invece ha sempre sostenuto che quel MiG libico è precipitato solo il 18 luglio, cioè lo stesso giorno in cui è stato ritrovato. Ad affermarlo è anche il generale Zeno Tascio, all'epoca capo dei servizi segreti dell'aeronautica. Il giorno 18 ero in riunione nell'ufficio del sottocapo di Stato Maggiore, viene la notizia che era caduto un velivolo non conosciuto. I nostri velivoli, uno dei nostri non era, perché dagli aeroporti non mancava nessun velivolo, e il sottocapo mi disse: allora prendi un aeroplano, vai in Sila, vai a vedere quello che è successo. Il problema è che questo MiG viene messo in connessione con la strage di Ustica, perché poi si scopre che i due medici che effettuano l'autopsia sul corpo del pilota si accorgono che questo cadavere è un cadavere in stato di decomposizione avanzata e quindi retrodatano la morte del pilota a una ventina di giorni prima. Tra Ustica e la caduta ufficiale del MiG passano 22 giorni. Io ero stato colui che era andato per ordine del capo di Stato Maggiore sul posto, avevo condotto le indagini, avevo trattato con il Ministero Affari Esteri per la restituzione del corpo, per la restituzione. Quindi avevo gestito in nome e per conto del capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e per certi aspetti anche del Sismi, perché anche il generale Santovito era un po' interessato alla questione. Quindi avevo gestito l'intera questione del MiG. C'è stata sempre nell'ambito di questa inchiesta una tendenza, non dico a vedere il collegamento tra i due fatti, ma una tendenza a tentare di vedere se ci fosse. Molteplici erano le indicazioni in questo senso: lo stato di decomposizione del cadavere, le dichiarazioni testimoniali di quei pochi che avevano assistito all'evento, la mancanza di molte parti dell'aereo frettolosamente restituite ai libici. Quello che rimane del MiG libico è custodito nell'hangar di Pratica di Mare, vicino a Roma. Nel 1980 il capo stazione della CIA a Roma si chiamava Duane Claridge. Questo signore, che io ho intervistato un paio di volte, sostiene, nelle interviste che io gli ho fatto, che i suoi uomini sono andati a vedere i resti del MiG libico precipitato sulla Sila almeno 4-5 giorni prima della data del ritrovamento ufficiale. Nel 95 sono stato perquisito in 5 posti contemporaneamente. Tra queste perquisizioni è venuto fuori questa agenda. Alla data del 14 luglio del 1900 c'era they want to see it, they will take a look, insomma qualcosa di questo tipo qua, MiG 21 c'era scritto. Siccome la data era del 14 ed erano annotazioni in ordine un po', diciamo, sequenziale, poi dopo venivano altre, hanno sempre ritenuto che quella lì fosse un contatto con Mr. Claridge. Io poi non riuscivo a ricordare, giuro che non riuscivo a ricordare a che si riferisse. Se non fossi stato sorretto dal fatto che il 18 ho visto stare fare che ancora fumava, avrei cominciato ad avere anch'io le travegole. Il generale Zeno Tascio è stato incriminato per alto tradimento per aver sostenuto che il MiG è stato ritrovato solo il 18 luglio e non molti giorni prima. Da questa accusa, però, il generale Tascio è stato assolto con sentenza ormai definitiva. Secondo i giudici, insomma, il MiG libico è caduto sulla Sila soltanto il 18 luglio e quindi con il disastro di Ustica non ha niente a che fare. Resta naturalmente il mistero di come sia caduto il MiG libico e perché fosse nei cieli della Sila. Ma torniamo al 19 di Ustica. Una delle ipotesi in campo, lo abbiamo detto, è quella della bomba a bordo. per diverso tempo si è pensato che si fosse nella scia della strage di Bologna, cioè questo evento fosse semplicemente antecedente in una catena di atti posti in essere dal terrorismo di estrema destra. In seguito si è parlato di un ordigno collocato da agenti libici, è stato anche sostenuto che avevano mano libera nella città emiliana e quindi i libici avrebbero fatto poi di nuovo Bologna perché hanno voluto ripetere il segnale. Ricordiamoci che la strage di Bologna viene effettuata il giorno in cui l'Italia firma con Malta il trattato di protezione militare dell'isola, facendo in modo che la presenza militare libica, che era massiccia fino a quel momento, quasi scomparisse immediatamente. Quindi c'era ben donde per una reazione forte della Libia, ma tutto questo, diciamo, sono ipotesi che noi stiamo facendo a tavolino e che nelle carte ancora purtroppo non trovano conferma. Nel caso si trattasse di un ordigno collocato all'interno del velivolo a Bologna, e ove questo fatto fosse ascrivibile a un'organizzazione di destra, di sinistra, si sarebbe trattato di una questione di polizia, cioè tutte le polizie possibili e immaginabili avrebbero fallito nell'evitare l'incidente e avrebbero fallito nel non essere riuscite a scoprirne gli autori. Il giudice Priore, insomma, non crede all'ipotesi della bomba a bordo dell'aereo, eppure proprio su queste due ipotesi, bomba a bordo oppure missile sparato da un altro aereo, si sono scontrati per anni i periti delle diverse commissioni d'inchiesta. Non ci sono dubbi, tutti erano d'accordo nel dire che si è staccato prima il motore destro, poi il motore sinistro, poi è partita l'estremità dell'ala sinistra, naturalmente era già partita la coda con i due motori e poi il resto del velivolo è caduto in mare praticamente integro. Io ritengo che l'unica causa della destrutturazione in volo del DC-9 sia un'esplosione interna. I danni strutturali, il tubo del water, della toilette, il tubo del condizionamento dell'aeroplano, le piegature del lavello, non trovano altra giustificazione se non in un'esplosione. I pezzi del DC-9 sono stati analizzati in laboratori inglesi, sono stati analizzati in laboratori italiani, sono stati analizzati come deformazione da tecnici frattografici. Non esiste un singolo pezzo sul quale questi laboratori dicono ci sono i segni di esplosione. Le tracce di esplosivo che normalmente uno analizza e considera come l'elemento determinante per un'esplosione sono stati probabilmente lavati via dall'acqua di mare. 12 anni non sono pochi. L'ipotesi che invece l'aereo sia stato tirato giù da un'esplosione esterna, essenzialmente quindi da un missile, permette di dire non ci sono stati i segni perché l'azione di abbattimento è stata dovuta a un'onda d'urto. È avvenuta a una distanza sufficiente dall'aereo da non produrre questi segni microscopici e giustifica questi altri segni di esplosione che sono pur stati trovati. La maggior parte dei missili esistenti allora erano missili con una spoletta di prossimità, cioè arrivano in prossimità del bersaglio a pochi metri di distanza, esplodono e lanciano una miriade di frammenti e gli aerei vengono abbattuti o danneggiati da queste schegge. Raramente il missile entra ed esplode. Uno studio del dicembre 2005 propende ancora per l'ipotesi missile. Donata Valletti e Vincenzo Francesco Morello, studenti del Politecnico di Torino, hanno ricostruito cosa sarebbe successo nel primo secondo dopo lo scoppio di un missile a distanza ravvicinata dal DC-9. Secondo Valletti e Morello, è possibile che l'onda d'urto abbia provocato il distacco del motore destro. L'onda d'urto prodotta da un missile più o meno nella zona anteriore, secondo queste simulazioni applica a questa zona una delle forze più intense e produce proprio una forza che tende a divaricare il motore e quindi a staccarlo dalla fusoliera, forza che viene, diciamo, che agisce nell'ordine dei centesimi di secondo. La modalità di attacco, il tipo di traiettoria è incongruente per un aereo che voglia attaccare un altro aereo e lanciare un missile, non farebbe mai così, non passerebbe mai sopra al bersaglio a cui ha sparato un missile. Dunque il relitto del 19 non fornisce elementi in grado di mettere d'accordo definitivamente gli esperti. Quello che resta dopo tutti questi anni è solo una tragica sequenza di indizi che non porta a nessuna prova. Ustica, insomma, resta un mistero ancora aperto. Nel silenzio della politica resta la sconfitta della magistratura e una ferita ancora aperta per la società civile e l'impossibilità di archiviare il dolore dei familiari delle vittime. Noi non vogliamo ragione. Noi non vogliamo briciole di soldi. Noi vogliamo sapere perché. Il 27 non è mai esistito. Sono morte 81 persone. Non sono solo morte loro, sono morte anche i pareti che ci stanno accanto, perché loro sono gli unici che ancora vogliono e hanno sete e desiderio di sapere la verità. Noi siamo cittadini italiani e dobbiamo avere fiducia nel nostro governo. Loro ci devono tutelare, altrimenti che ci stanno a fare? Un grande paese non può essere un grande paese se non dà degna sepoltura ai suoi morti. Non ha diritto di reclamare la propria dignità. Un paese che non dà degna sepoltura ai suoi morti. Cinzia Andres, Luigi Andres, Francesco Baiamonte, Paolo Donati, Alberto Bonfietti, Alberto Bosco, Maria Vincenza Calderone, Giuseppe Camarota, Arnaldo Campanella, Francesca Lupo, Antonio Giovanna Lupo, Antonella Cattini, Anna Paola Pellicciano.